il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il Veneto è una delle regioni italiane che produce la maggior quantità di latte. Buona parte di questo latte viene poi trasformato in formaggio. E sempre più spesso si diffondono nel nostro territorio i piccoli caseifici a carattere artigianale, a volte anche a carattere familiare, che propongono un formaggio, diciamo, a chilometri zero. Alcuni di questi caseifici sono aziende agricole che si sono trasformate magari perché la produzione di latte non garantiva più un reddito sufficiente per vivere. Uno di queste aziende si trova a Bosco di Rubano, una delle prime che hanno fatto questo passaggio, ed è il caseificio di Coriolano Traverso, un'azienda che appunto ha fatto il passaggio, un'azienda storica dal nonno al padre al figlio, il quale ha fatto questo passaggio di trasformare l'azienda, di aggiungere anche una produzione artigianale. Perché? L'ho avviata perché innanzitutto avevo passione nel mondo di cucina già dal bambino, mi piaceva il fatto di cucinare, di fare dolci, mi piaceva un attimo l'ambiente alimentare. Poi, visto che sono rimasto a casa da scuola, finito le medie, ho fatto solo un anno di prima superiore, ho pensato, ho la materia prima del latte, perché non provare a fare il formaggio? E da lì mi sono inventato, facendo delle prove in casa, di fare di formaggi, vedere come riuscivano. E così, vedendo un buon risultato, un discreto risultato, ho pensato di aprire il laboratorio, di fare proprio una ristrutturazione un po' aziendale e di fare un piccolo laboratorio per permettermi di cominciare con normative ASL, con tutto quello che ci vuole per il mondo alimentare. E qui ho pensato di iniziare. È stata un'avventura molto intensa e positiva. La gente è molto gentile, mi ha sempre gradito i prodotti. Abbiamo sempre cercato di aumentare anche di quantità di prodotti, farne tanti altri, di migliorare in anno. È da 2004 che ho iniziato e ad oggi sono soddisfatto. Il problema è che che adesso anche la crisi economica e tutto quello che ci va attorno, c'è il problema del latte che vale sempre meno e tutto quanto un sistema. Ecco, quindi mi pare di capire che non consiglieresti ad un'azienda, un allevamento agricolo che produce latte di avviare questa nuova attività anche di produzione di formaggio, oppure c'è ancora spazio? Perché stanno crescendo, vedono corsi per fare formaggio, ce ne sono, le aziende che si propongono sono tante, c'è anche gradimento, però effettivamente bisogna anche capire se c'è lo spazio. Ma lo spazio c'è per tutti e ci deve essere, perché è giusto così, che ognuno abbia delle sue inventive per iniziare, per fare tutto quanto. È che io mi aspetterei più un fatto, come posso dire, di unione tra agricoltori, di dividersi i prodotti e tutto qua, perché tutti facciamo tutto e tutti facciamo tanto. E invece sarebbe più bello unirsi e dire: io faccio uno o due prodotti, un altro fa altri uno o due prodotti, per migliorare il prodotto alla fine, perché facendo poche cose riesci a farle meglio, facendone tante le fai sempre bene, però ti comporta tantissime ore. Basti pensare che io occupo in azienda anche 15-16 ore al giorno, cioè è una cosa un po' che a lungo andare ti dà soddisfazione, ma ti dà anche tanto. Hai poco tempo per seguire la famiglia, perché è una nuova attività, è una nuova vita, perciò è difficile. Sì, quindi sì, si passa sappiamo che il lavoro del contadino, dell'agricoltura è sempre stato difficile, inventarsi anche artigiano del formaggio crea ulteriori, è un doppio lavoro, si aggiunge lavoro a lavoro, perché non è che la parte precedente, quella si perda. Voi avete dei campi, producete il foraggio, avete le mucche, voi tra l'altro siete una delle poche aziende che porta d'estate in alpeggio sul Monte Grappa una parte dei vostri delle vostre vacche. Sì, noi abbiamo fatto la scelta di portarli in alpeggio d'estate per dare più salute all'animale, in modo che l'animale quando torna per l'autunno è più in forma e trascorre un inverno molto più salutare, rendendomi anche addirittura il prodotto finale più di qualità, cioè praticamente il latte più qualitativo, l'animale sta bene, c'è un benessere animale di alto livello. E si recuperano gli alpeggi anche che spesso sono abbandonati, come in questo caso sul Monte Grappa. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Se tu fossi qui, sarei da sola. E la casa non avrebbe più pareti. Se tu fossi qui, non saresti certo mio, mai. Se tu fossi qui, non è colpa tua, ma saremmo separati dal silenzio. Mi ricordo, sai, quando sono andata via. Tutte le parole sono naufragate, tutte sono state cancellate da un vento improvviso che invade questa stanza, da un faro che acceca la mia meraviglia. Scompari nel letto, leggera come foglia, è il vento che adesso conduce questa danza. Siamo lì ancora. Se tu fossi qui, io vorrei da te una quiete che precipita dall'alto. Ho ballato, sai, lo faccio quando esulto di tristezza. Tutte le parole sono naufragate, tutte sono state cancellate. Questa danza, tutti i nostri sogni esagerati, come quei palazzi nuovi abbandonati, come tutti quei ragazzi inceneriti, come tutti i nostri sogni esagerati. E come se tu fossi qui. Eccoci di nuovo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di formaggio, di un'azienda agricola che produce i propri formaggi, quindi non spreca nulla del proprio latte, viene tutto utilizzato. E ne stiamo parlando appunto con l'azienda agricola Coriolano Traverso di Bosco di Rubano, in provincia di Padova. Quali sono i formaggi che producete e quali sono quelli preferiti dalla clientela? Ma la clientela, per fortuna, gradisce un po' tutto. E noi produciamo dalle caciotte, dalle ricotte, alle paste filate, che sono le mozzarelle, e le caciocavalli o provole, come si vuole chiamare. Poi produciamo dai formaggi un po' semiduri e duri, che si va da un mezzano da 4, 5, 6 mesi fino a che portiamo oltre 12 mesi. Dopo facciamo un tipo di bastardo, un morlacco che è classico e si abbina al discorso della malga per l'estate, e produciamo le toselle da far cotte, i primi sale, che sarebbe un formaggio da mangiare subito, con la rucola, con le olive, con le noci. Produciamo tantissime cose, anche dalle sfoglie con prosciutto cotto, tonno, olive, oppure prosciutto e funghi, oppure bresaola, rucola e grana. Dopodiché produciamo lo yogurt, e da 2 anni a questa parte ho voluto chiudere il ciclo di prodotti del latte con il gelato. Noi produciamo gelato e vari dolcetti a freddo, e per chiudere il ciclo tutto in barattoloni, ecco. Quindi anche il latte estivo, che magari si mangia meno formaggio, trova comunque una sua via, cioè lo producete in gelato, quindi anche quello, altrimenti avreste un eccesso di latte per l'estate. Esatto, dunque per questo motivo, visto che l'estate la gente va anche, si inizia la stagione, che la gente anche il sabato, la domenica viaggia, c'è un'uscita, per portare dentro gente in azienda ho inventato il discorso di fare un gelato, perché per avere un pasto buono, sano e senza conservanti, senza niente, è stata una novità che ha avuto molto successo ed è molto gradita. Ecco, per concludere, un consiglio a qualcuno se volesse intraprendere questa carriera, se si può dare un consiglio in positivo o anche in negativo? Beh, in negativo no, perché io non voglio deludere nessuno. Certo che consiglio a tutti quanti di provare, di mettersi un po' in gioco, però sapendo che la vita è molto dura. Grazie. Ricordiamo anche che per chi volesse avere informazioni sul caseificio Traverso lo può trovare a Bosco di Rubano, in via Gioberti 37, e c'è anche un sito internet www.caseificiotraverso.it. Passiamo adesso alle notizie e rimaniamo anche un po' in tema di imprenditoria giovanile, perché ricordiamo la grande giornata dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare all'agricoltura, organizzata dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura alla Corte di Benedettina di Legnaro per il prossimo 12 marzo. Un evento che vuole mettere di fronte i giovani con le nuove sfide del settore primario e far conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e in particolare dal programma di sviluppo rurale. L'evento è gratuito, a iscrizione obbligatoria, informazioni sul sito www.venetoagricoltura.it. Sempre sullo stesso sito, cambiamo argomento, è stata resa disponibile, ma per ora scaricabile solo online, una guida per il corretto uso dei prodotti fitosanitari, che è anche il testo di studio per quanti devono seguire il corso e sostenere l'esame per il certificato di abilitazione all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari, ovvero il patentino. È organizzata per schede, aggiornabili anche in fasi successive, tenendo conto delle evoluzioni normative e tecniche della materia. Siamo nella settimana dell'8 marzo, quindi diamo 2 brevi notizie che in qualche modo riguardano il mondo femminile. La prima è un po' nel mondo del vino, questo è il mese del Vinitaly che si terrà da domenica 22 a mercoledì 25 di marzo, avremo tempo di parlarne. Questa settimana però una curiosità che ci porta sempre nel veronese, la DOC veronese del Bardolino, una cantina su 3 appartiene a una donna, quindi il 30% delle cantine del Bardolino sono a conduzione femminile, non solo, ma il 22% delle aziende è a prevalenza di personale femminile e il 6% è composta di sole donne. Infine, la clientela del Bardolino in versione chiaretta è prevalentemente femminile. Si calcola che il 62% degli acquisti del classico rosato gardesano sia effettuato da donne. E domenica 8 marzo, proprio domenica 8 marzo, dalle 10 alle 18, alla Dogana Veneta, presso il porticciolo di Lazzise, la località sulla riva veronese del Garda, saranno in degustazione i vini Chiaretto e Bardolino. Terminiamo con, parlando di bachicoltura, vi è una rinascita al femminile a quanto pare di questa storica attività. Se ne parla il 6 marzo a Mogliano in un'iniziativa promossa da Donne Impresa di Coldiretti, venerdì 6 marzo alle ore 15 nell'ex Filanda Motta a Campocroce di Mogliano Veneto in provincia di Treviso. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato